Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Gli Stati Uniti sganciano una bomba molto potente sull'Afghanistan, mentre la Corea avverte: se volete la guerra, siamo pronti. Arriva il reddito di inclusione per 2 milioni di persone, annuncia Gentiloni. Oggi i dati Istat nel 2015, 4 milioni e mezzo di italiani in povertà assoluta. All'Italia preaccordo con una riduzione degli esuberi verso il referendum dei lavoratori, Calenda Radio 24, se l'operazione fallisse ci costerebbe 1 miliardo. Presentato il nuovo Milan, Donnarumma colonna del futuro, dice il neopresidente. Domani il derby con l'Inter si gioca alle 12.30. Si apre il primo di 3 lunghi fine settimana per Pasqua, attese 10 milioni di persone negli alberghi, traffico, qualche temporale nelle zone del terremoto, si spera in un buon avvio della stagione. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp se ci volete scrivere, così come potete connettervi alla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, così come su quella di Radio 24, e andiamo in onda in video anche da là e anche là. Se volete potete scrivere e commentare. In apertura dunque le tensioni internazionali che continuano a moltiplicarsi, dalla Corea all'Afghanistan, ma con gli Stati Uniti sempre al centro della scena. Le tensioni sulla Corea del Nord vanno fermate prima che raggiungano uno stadio irreversibile e impossibile da gestire. E questo l'appello lanciato oggi dalle autorità cinesi, mentre sta per giungere nelle acque della penisola coreana il gruppo navale americano di attacco incentrato sulla portaerei a propulsione nucleare Carl Vinson. E dopo che dalla Siria all'Afghanistan la nuova America di Trump ha mostrato la sua propensione a ricorrere a missili e bombe. La Corea del Nord ha biasimato Trump sostenendo che con lui l'America è diventata più malvagia e aggressiva, spingendo la situazione sull'orlo di una guerra termonucleare. Domani a Pyongyang si celebra il giorno del sole, anniversario della nascita del fondatore della nazione Kim Il-sung. C'è chi teme, come è successo in passato, che il regime voglia dare una dimostrazione di forza e spavalderia con un nuovo test missilistico nucleare. Intanto si è appreso che il governo giapponese ha studiato piani di evacuazione dei cittadini giapponesi in Corea del Sud, ma il fatto che non ci sia stato un ordine di evacuazione per i cittadini americani residenti a Seoul lascia sperare che Trump non premerà il grilletto, almeno per ora. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Delegazioni di almeno 11 paesi, fra cui Cina, Pakistan, Iran e India, si sono riunite a Mosca per una conferenza internazionale sull'Afghanistan, che segna l'ingresso diretto della Russia negli sforzi per trovare una via d'uscita negoziata ad un conflitto con i talebani che dura da ormai oltre 15 anni. Ma ad aprire l'incontro con la stampa alla fine dei lavori è stato il tema della Siria e dell'attacco degli Stati Uniti alla base aerea di Idlib, dopo il presunto utilizzo di armi chimiche da parte del regime siriano. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, in accordo con gli omologhi di Siria e Iran, ha dichiarato che l'attacco missilistico americano serviva a minare il processo di pace e cambiare il regime, ma il tentativo è fallito. Un interventismo, quello americano, che alla vigilia della conferenza di pace è arrivato proprio in Afghanistan con il lancio della superbomba Moab. L'ordigno ha colpito nella provincia orientale di Nangarhar una finora inespugnabile rete di tunnel dove c'erano fra 40 e 70 militanti armati dello Stato Islamico. Un attacco sostenuto dalle forze governative ma osteggiato dai talebani afghani che nei mesi scorsi più volte si sono scontrati con i militanti dell'ISIS e che hanno definito gli Stati Uniti criminali internazionali. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma che tipo di bomba è quella sganciata dagli americani? Lo abbiamo chiesto a Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Sentiamo. La GBU-43 è una bomba ad altissimo potenziale, una bomba da 10 tonnellate, di cui 8 e mezzo sono di esplosivo. È l'erede di altre bombe del genere, come la nota Taglia Margherite, che venne impiegata in Vietnam, anche in Iraq nel 91 e poi anche nello stesso Afghanistan durante le operazioni contro i talebani nel 2001. Sono bombe che hanno un alto potere distruttivo e sono utili per colpire in maniera devastante reparti di fanteria o unità nemiche poco protette, come nel caso dei miliziani, e per distruggere qualunque tipo di installazione difensiva che sia in superficie o appena sotto il livello del suolo. non sono armi a penetrazione, non sono armi idonee a distruggere bunker scavati in profondità, ma sono armi che hanno anche un grande potere psicologico. Un uomo può essere ucciso anche solo dallo spostamento d'aria provocato da questa bomba, e hanno un grande potere psicologico perché anche a distanza in cui la bomba non è più letale, lo shock che provoca i combattenti li mette fuori combattimento a volte per molto tempo. E questo il quadro internazionale al momento. Andiamo a parlare di Alitalia. Dopo un incontro durato quasi 18 ore con vari stop and go al Ministero per lo Sviluppo Economico, alle 2 di questa notte sindacati e azienda hanno trovato una mediazione che dovrà essere approvata dai lavoratori con un referendum che si terrà probabilmente la prossima settimana. L'intesa conferma le riduzioni di personale e stipendi, ma in misura inferiore rispetto a quanto scritto nel piano industriale. Gli esuberi tra il personale di terra a tempo indeterminato scendono da 1.338 a 980, e questo grazie ad una riduzione dei servizi dati in appalto all'esterno, nuova cassa integrazione per 2 anni a partire dal prossimo mese e altre misure come l'incentivazione all'esodo. Altro capitolo, il taglio degli stipendi di chi lavora sugli aerei. Sarà dell'8% anziché del 30% previsto fino a ieri. Si riducono gli scalini degli scatti di anzianità, ci sarà un tetto del 25% sull'incremento retributivo in caso di promozione e per i neoassunti verrà applicato il più economico contratto Cityliner. Tagli anche per i riposi annuali e utilizzo della solidarietà fino alla scadenza prevista a settembre 2018. Per Alitalia, che continua a perdere 2 milioni di euro al giorno, non sarà facile ritrovare la giusta rotta, ma se l'accordo verrà approvato dai lavoratori, per ora si potrà evitare l'amministrazione controllata. Ma a questo punto come farà la compagnia a centrare gli obiettivi di risparmio, che per un terzo dovrebbero riguardare il costo del personale? E quale sarà la risposta degli azionisti che dovrebbero immettere nuove risorse finanziarie per 900 milioni di euro? Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel caso saltasse tutto, dice il ministro Calenda, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, i costi per lo Stato sarebbero alti. Sentiamolo, intervistato stamattina da Oscar Giannino in 24 Mattino. Se l'accordo è approvato dai sindacati, per questa condizione per la banca e gli azionisti per mettere risorse... Sì. A quel punto immagino, questo poi è una decisione finale degli azionisti, che gli azionisti metteranno le risorse previste, lo Stato italiano, cioè attraverso Invitalia, potrà dare una garanzia su questi 200 milioni da eventualmente versare se le cose andassero male nella metà del 2018. Tenete presente che l'amministrazione straordinaria, che è l'alternativa se questa manovra fallisse, butterebbe sullo Stato italiano tutti i costi della gestione all'Italia e o della liquidazione all'Italia, che avrebbe costi altissimi. La sola amministrazione straordinaria costerebbe più di 1 miliardo di euro. Così dunque il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. È arrivato oggi l'accordo sul reddito di inclusione. Il governo ha dato il via libera ad un provvedimento. Sentiamo. Un passo importante, un segnale contro la crisi che ci ha lasciato un incremento della povertà con oltre 1,5 milioni di famiglie povere. Paolo Gentiloni commenta così la firma a Palazzo Chigi del memorandum d'intesa sul reddito di inclusione. A beneficiare del nuovo strumento, che prevede anche un sostegno economico che potrà arrivare fino ad un massimo di 485 euro al mese, saranno circa 2 milioni di persone, spiega il Premier, il quale assicura che dopo il via libera del Parlamento alla legge delega, i decreti attuativi verranno approvati entro fine mese. Naturalmente quello di oggi è un primo risultato, però penso che sia utile rivendicarlo a testa alta, perché in fondo è la prima volta che l'Italia si dota di uno strumento generale, universale, che vale su tutto il territorio nazionale, che è il reddito di inclusione. Presente all'incontro a Palazzo Chigi, la numero uno della CGIL Camusso sottolinea che la firma del memorandum rappresenta un importante passo avanti, anche se servono più risorse se si vuole che il reddito di inclusione diventi davvero uno strumento universale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dovremmo avere anche un servizio sui dati che sono stati diffusi oggi dall'Istat sulla povertà. Sentiamo. Sono più di 8 milioni gli italiani poveri, di cui circa 4 milioni e mezzo in condizioni di povertà assoluta, che non possono cioè acquistare il minimo indispensabile per vivere. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istat, che analizzando la situazione economica delle famiglie rileva come rispetto al 2014 peggiorino soprattutto le condizioni delle famiglie con 4 componenti. Nel 2016 la quota di persone soddisfatte della propria situazione economica è cresciuta però per il terzo anno consecutivo, in particolare al centro-nord. Restano problemi di diseguaglianza per concentrazione del reddito, più elevata in Sicilia e più bassa nelle regioni di nord-est. Nel 2015 il PIL pro capite dell'Italia, misurato in standard di potere d'acquisto, risulta ancora sotto il livello del 2012 e inferiore del 4,5% rispetto a quello medio dell'UE, più basso di quello di Germania e Francia, ma superiore a quello spagnolo. Il mercato del lavoro, nonostante i recenti miglioramenti, relega l'Italia in fondo alla graduatoria. Da noi sono occupate poco più di 6 persone su 10 tra i 20 e i 64 anni, il dato peggiore nell'Unione Europea ad eccezione della Grecia. Ed è forte lo squilibrio a sfavore delle donne, così come il divario tra centro-nord e mezzogiorno. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si apre un fine settimana di partenze, non solo, una buona occasione per fare il punto sulla situazione delle nostre strade. Ponti che crollano, cantieri ovunque, per le nuove grandi opere, costi e tempi incertissimi. La rete stradale italiana, circa 500.000 di chilometri, invecchia. L'impianto di base risale agli anni 70-80. Per salvaguardare l'esistente, solo nel 2016 ANAS, ora avviata verso l'incorporazione in ferrovie, ha bandito gare d'appalto per 1.600.000.000. I concessionari autostradali, dice Aiscat, ogni anno investono 700.000.000 nelle manutenzioni. Poche risorse invece a disposizione dei comuni o talvolta pur avendole non possono investirle a causa dei vincoli europei. Di fatto in 10 anni in Italia il consumo di bitume è passato da 44 a 22 milioni di tonnellate. Il presidente di SITEB, l'associazione dei costruttori e manutentori di strade, Michele Turrini. Abbiamo perso praticamente il 50% di produzione, che vuol dire che sono il 50% delle nostre strade non hanno manutenzioni adeguate. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E alla situazione delle strade italiane sarà dedicato uno speciale realizzato proprio dal nostro Andrea Ferro, che andrà in onda nel giorno di Pasquetta, quindi lunedì alle 22, uno speciale di mezz'ora nel quale approfondiremo tutto questo e non solo questo, parleremo anche di codice della strada. Dunque si parte, che tempo troveremo? Paolo Corazzon di Trebimeteo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, vediamo rapidamente che tempo farà durante questo weekend, che vedrà qualche temporale passare sull'Italia. In particolare domani pomeriggio arriveranno degli acquazzoni su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna e Levante Ligure, temporali che poi alla fine di domani si spostano verso Toscana, Umbria e Marche. E domenica ritroveremo molta variabilità sul Medio Adriatico, Marche, Abruzzo, Molise e anche nel sud peninsulare, ma si tratta di temporali acquazzoni di passaggio, quindi non stiamo parlando di piogge continue o di un'intera giornata di maltempo, tutt'altro. E inoltre domenica già al nord il tempo tornerà bello sin dal mattino e situazione buona anche sul versante tirrenico. Infine lunedì di Pasquetta, con tanto sole in tutta Italia, giusto qualche temporalino pomeridiano a ridosso dei rilievi. Con questo è tutto. Grazie al nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo, aggiornamenti ovviamente anche sul loro sito, così come durante la giornata di Radio 24. La politica adesso, che si concentra soprattutto in queste ore sulla Presidente della Camera, Laura Boldrini, che torna a prendersela con le cosiddette fake news. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, si ribella contro le bufale sul web Laura Boldrini. La Presidente della Camera interviene sui post che riguarderebbero una presunta sorella, lo voglio dire a ridosso delle feste di Pasqua, dice Boldrini, la mia unica sorella, morta anni fa per malattia, non si è mai occupata di migranti, restaurava e dipingeva affreschi. Peraltro non si chiamava nemmeno Luciana ma Lucia. Perché dice questo? Perché in una foto che gira sul web una ragazza mora viene indicata come Luciana Boldrini e viene accusata di occuparsi di 340 cooperative che si occupano di gestire immigrati. Non manca poi il commento, nessuno ne parla ovviamente. Quella ritratta in realtà è l'attrice americana Kristin Ritter di 35 anni. Boldrini allora si riferisce a tutti coloro che hanno condiviso sulle loro bacheche, sui loro profili queste menzogne su di lei e soprattutto a chi ha creato queste false notizie, personaggi senza scrupoli, sciacalli che non si fermano nemmeno davanti ai morti. Arrivano i primi commenti sulla vicenda, i Dem si schierano con Boldrini, vergogna, dice appunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Marianna Boschi, un messaggio condiviso anche dall'ex premier Matteo Renzi e per la ministra dei rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, c'è da provare vergogna per gli sciacalli. A te Simone. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Beh, chi ci segue in diretta video sulla nostra pagina Facebook li ha già visti arrivare. Giovanni Capuano e Carlo Genta sono in studio con me, uno per la parte societaria e l'altro per la parte sportiva. Iniziamo dal Milan, no, Giovanni Capuano. Tutti. Ciao, ciao. Beh, iniziamo dalla parte sportiva. Oggi abbiamo sentito le prime parole di Yongo Lee, che da ieri, ore 14.04, è il nuovo proprietario del Milan. Oggi ha letto, perché non ha parlato a braccio, ha letto un breve discorso, 4-5 minuti in cinese, perché Yongo Lee non parla inglese. L'unico rappresentante della nuova società che parla inglese oltre a cinese è Davide Han Lee, che è il suo braccio destro, che oggi era presente ma non ha parlato. Yongo Lee, visibilmente emozionato, ha ringraziato Berlusconi, ovviamente tutti i ringraziamenti di rito, ha detto: oggi è un giorno importante per la storia del Milan e abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle, che è la responsabilità di riportare questo club là dove merita di stare e dove da troppe stagioni non è. Poi però ha parlato Marco Fassone, che oggi è stato confermato, sarà il prossimo, in realtà è già da ieri amministratore delegato del Milan, è il capo azienda, è colui che dovrà guidare nei prossimi mesi la società. Fassone, che ha provato a fare un po' chiarezza sui numeri di questo closing, si è tanto scritto dell'indebitamento che Yongo Lee e il Milan si sono presi in carico per poter arrivare a dare tutti i soldi che servivano per chiudere la trattativa con Fininvest. Fassone oggi ha provato a fare chiarezza, ha distinto il debito della proprietà dal debito del Milan, ha detto anche che è una follia pensare che un'operazione da 1 miliardo di euro complessivi possa essere fatta senza la leva del finanziamento, e ha citato, anche senza fare nomi e cognomi, altre operazioni, ma si riferiva evidentemente all'acquisto dell'Inter, sia da Tuir che poi da Suning. E poi ha provato un po' a dettare quelli che sono gli obiettivi della nuova società. L'obiettivo sportivo è rientrare nel 2018-2019 nella Champions League, perché questo aiuterebbe anche i conti. Poi c'è l'aggressione ai mercati cinesi e il Milan ha delle strategie in mente, e poi c'è anche la questione stadio. Ha detto: a breve medio termine vogliamo dotare il Milan di uno stadio che sia in linea con i tempi. Per i tifosi, così diamo subito le notizie che poi interessano, sì, la carne viva dei tifosi, priorità numero uno il rinnovo di Donnarumma, anche se ha detto Fassone poi la nostra volontà si scontra con le volontà di chi si siederà dall'altra parte del tavolo, e pensava all'agente Mino Raiola. Il budget di mercato sarà importante, vogliamo inserire uno o due profili di alto livello, dei top player, i nomi non li ha fatti ma i riferimenti, sì, sono Aubameyang, Benzema e gli altri. Può essere che prima dell'inizio della stagione entri in società la famosa bandiera di cui si è tanto parlato nei mesi scorsi, anche se ha detto che farà una lunga chiacchierata con Franco Baresi. E poi, per quanto riguarda la questione allenatori, ha detto: l'allenatore del Milan per il futuro è Vincenzo Montella, ha tutto il nostro supporto. Mancini, che era stato accostato al Milan, è un grande allenatore, ma gli auguro di trovare presto una nuova squadra. E tra l'altro in orario, e grazie intanto a Giovanni Capuano, in orario, come dire, veramente comodo per i cinesi, si svolgerà il derby di domani. E però con Carlo Genta torniamo subito dopo il traffico, perché siamo in ritardissimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di tutte le tensioni internazionali che riguardano tanto gli Stati Uniti e l'Afghanistan quanto gli Stati Uniti e la Corea. Abbiamo parlato del reddito di inclusione, dei dati sulla povertà, abbiamo parlato di Alitalia, ci siamo occupati di politica con la vicenda di Laura Boldrini. E prima di iniziare il nostro giro per l'Italia avevamo lasciato in sospeso il nostro Carlo Genta, che è sempre in studio qua con me, per parlare del fine settimana sportivo, a partire ovviamente da questo derby tra Milan e Inter delle 12.30. Carlo, vai. Sì, derby storico, Simone. Siamo in onda, pettiniamoci la barba tutti e due, aggiustiamoci gli occhiali. Derby storico, dire derby storico è una banalità, ovviamente. Primo derby cinese, si gioca all'ora della grigliata prepasquale delle 12.30, anche questa è una novità, ma non è storia. La storia vera è quella che ci ha raccontato prima Capuano, cioè certo, sarà chi ha meno di 31 anni non ha mai visto un derby senza Silvio Berlusconi, certo, seduto in tribuna. Fu storico però anche l'ultimo derby prima di Silvio Berlusconi, perché fu nel dicembre dell'86 e fu un 2-2 con gli unici due gol in rosso-nero di tal Pablito Rossi, l'eroe del Mondiale. Vedi. Invece sai il primo derby di Berlusconi come finì? Finì 1-0 per l'Inter con il gol di un esordiente in Serie A che si chiamava Minaudo e che oggi si occupa di mutui in provincia di Lecco. Questo tanto storia di derby, fantastico. Sì, storia di derby. Per quanto riguarda la partita di domani, è il derby di Milano cui siamo abituati ormai da più di un lustro, da parecchi anni. C'è un derby piuttosto depresso, si corre per il sesto posto, quindi per l'Europa minore addirittura con il rischio di passare per i preliminari. L'Inter ci arriva con due sconfitte brutte e pesanti sulla gobba, il Milan un po' più ringalluzzito perché ha vinto le ultime partite. Si sa che chi entra nel derby da favorito di solito lo perde, questo vuole la storia, la leggenda, il ritornello. Guarda, l'unica cosa grandissima di domani, oltre alla storia, sarà San Siro pieno, tutto esaurito. E io dico che la gente che sta lì dentro, che sia vestita di rosso nero o di nero azzurro, merita certamente qualcosa di meglio rispetto a quello che stai vivendo. Allora Carlo, io ti ringrazio, poi ovviamente torneremo a parlare di tutto questo a partire dalle 14 in tutti i convocati e noi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Lo iniziamo, perdonate, veniamo da un argomento leggero come il calcio, andando ad una storia di cronaca e una vicenda che ci ha colpito anche un po' per il silenzio sotto il quale sta passando. È la vicenda di Tony Drago. Tony Drago era un uomo di 25 anni, un caporale dell'esercito, e fu trovato cadavere il 6 luglio del 2014 all'interno della caserma dei lancieri di Montebello di Roma. L'ipotesi iniziale, l'ipotesi che c'è stata fino adesso, è che fosse stato un suicidio. Grave la cosa, perché si ipotizzava un suicidio dovuto ai ripetuti episodi di nonnismo subiti da quest'uomo, da questo ragazzo di 25 anni. Ebbene, l'ultima perizia chiesta dal giudice per le indagini preliminari racconta un'altra storia, e l'ipotesi che sta prendendo corpo è che sia stato costretto a fare delle flessioni all'infinito sempre per nonnismo, che qualcuno gli sia saltato sulla schiena e che poi sia stato ucciso con un oggetto contundente, forse una vanga sulla testa. Dario Riccioli è l'avvocato della famiglia. Buongiorno avvocato, benvenuto. Buongiorno, ben trovati anche a voi. Allora, è dovuto, come si dice, tutto il garantismo della cosa nei confronti degli ex commilitoni di Tony, e però la verità che sta emergendo è un'altra rispetto a quella ipotizzata, mi sembra di capire. È vero. Devo confessare che all'inizio, quando ho assunto l'incarico, mi sembrava veramente incredibile riuscire a raggiungere i risultati che abbiamo raggiunto in così poco tempo, in un anno, perché partivamo da una richiesta di archiviazione, quindi da meno 3, e siamo arrivati a una perizia in seguito ad incidente probatorio che ha dimostrato con rigore scientifico e al di là di ogni ragionevole dubbio che l'unica ricostruzione possibile, compatibile con la multiresività diffusa sul corpo di Tony Drago e con la ricostruzione della dinamica dell'evento, è una ricostruzione omicidiaria. Avvocato, c'è stata forse la volontà all'inizio, per così dire, quasi di mettere sotto silenzio, forse, cioè di fare un'autopsia forse affrettata, dando per scontato il suicidio? Avvalgo della facoltà di non rispondere. No, allora le rispondo così: che probabilmente all'inizio l'ipotesi del suicidio era apparsa l'ipotesi più accreditata o accreditabile. E quindi consulenza dell'esame autoptico disposto dalla pubblico ministero. Se può, Riccioli, mi scusi, Riccioli, le posso chiedere di alzare la voce? Più di un ascoltatore ci segnala che si sente male. Certo. La qualità in sé della telefonata non è buona, però magari se lei alza la voce la sentono meglio. Prego, provi un attimo. Adesso come mi sente? Sì, credo che si senta meglio. Allora, prosegua. Bene, dicevo questo, che probabilmente nel luglio del 2014, quando venne eseguito il primo esame autoptico sul corpo di Tony, l'ipotesi del suicidio era apparsa come l'ipotesi più accreditata, e quindi si andarono a ricercare soltanto gli elementi di conferma dell'ipotesi del suicidio. In realtà non si trattò di suicidio, ma di omicidio, e quindi le indagini che sono state fatte successivamente in seguito alla richiesta di incidente probatorio che è partita dalla Procura della Repubblica di Roma, le indagini hanno cercato altro, quindi hanno avuto una finalità diversa. Devo ammettere che il presupposto di partenza, quello del suicidio, è stato comunque mantenuto dai periti che sono stati nominati dal GIP per eseguire la perizia multidisciplinare. Sì. Cioè loro sono partiti, mettiamola così, i periti del GIP, nominati al GIP, sono partiti dall'ipotesi di suicidio, cioè hanno detto partiamo da questa ipotesi perché è l'ipotesi sulla quale al momento si sta lavorando, sulla quale stanno lavorando anche i pubblici ministeri. E poi però nel lavorare alla perizia piano piano si sono resi conto che una serie di elementi non collimavano con l'ipotesi di suicidio, a partire da quelle che sono le lesioni sul corpo e compresa anche l'ipotesi di traiettoria del corpo che si lancia dalla finestra, della persona che si lancia dalla finestra, e quindi ci sono tutta una serie di cose che non tornano. Devo comunque aggiungere un particolare. La ipotesi del suicidio è stata smontata dalla consulenza che è stata predisposta dal mio consulente, l'ingegnere Grazia Lacava, perché noi abbiamo riprodotto nel corso di un esperimento giudiziario, chiamiamo così impropriamente, sì, ma era una simulazione di una caduta, abbiamo riprodotto l'eventuale lancio, il presunto lancio che avrebbe fatto Tony quella mattina. Abbiamo dimostrato, l'ingegnere Lacava ha dimostrato con rigore scientifico, al di là di ogni altro ragionevole dubbio, che era impossibile la precipitazione. Quindi diciamo che i periti avevano già comunque nelle mani un lavoro che diceva questo. Le chiedo un'ultima cosa, avvocato, perché abbiamo veramente pochi secondi. Voi a questo punto siete in attesa della chiusura delle indagini, anche per capire. Pronto? Che cosa ci sente? Pronto? No, non ci sente più. Evidentemente oggi le cose con i telefoni con l'avvocato, almeno riceve, abbiamo qualche problema. Torneremo su questa vicenda. Si è in attesa della chiusura delle indagini, i termini stanno per scadere e vedremo come evolveranno le cose. È una vicenda bruttissima, una vicenda di nonnismo, come abbiamo raccontato. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, come sempre, e poi ci ritroviamo e faremo un rapido giro. Non ci sono le borse, è vero, oggi, scusate, le borse sono chiuse, me ne stavo dimenticando. Ci prendiamo solamente la pausa e poi ci ritroviamo e facciamo un rapido giro, visto che siamo alla vigilia del weekend pasquale, poi ci sarà quello del 25 aprile e quello del 1 maggio, tutti fine settimana lunghi. Ebbene, torneremo dai nostri amici che gestiscono gli alberghi nelle zone colpite dal terremoto e sentiremo da loro come stanno andando le cose, se la stagione sta partendo bene. Questo perché vogliamo, come sapete, tenere i riflettori accesi su quello che succede là. A tra poco. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp, oppure la nostra pagina Facebook dalla quale stiamo andando in diretta video. I nostri titoli: gli Stati Uniti sganciano una bomba molto potente sull'Afghanistan mentre la Corea avverte, se volete la guerra siamo pronti. Arriva il reddito di inclusione per 2 milioni di persone, annuncia Gentiloni. Oggi i dati Istat: nel 2015 4 milioni e mezzo di italiani in povertà assoluta. All'Italia c'è un preaccordo con la riduzione degli esuberi. Calenda intanto parla a Radio 24: se l'operazione fallisse costerebbe 1 miliardo ai contribuenti. Presentato il nuovo Milan, Donnarumma colonna del futuro, dice il neo presidente. Domani il derby con l'Inter, si gioca alle 12:30. Si apre il primo di tre lunghi fine settimana. Per Pasqua attese 10 milioni di persone negli alberghi, traffico e qualche temporale. E dunque proseguiamo adesso il nostro giro per l'Italia e lo proseguiamo facendo, toccando alcune delle zone colpite dal terremoto e anche non solo dal terremoto ma anche dagli eventi atmosferici che si sono verificati, in particolare mi riferisco all'Abruzzo. Questo perché, come sapete, abbiamo deciso di tenere accesi i riflettori sulle zone colpite dal terremoto affinché non siano dimenticate. Nelle settimane scorse abbiamo sentito spesso i sindaci, abbiamo sentito anche gli operatori economici, adesso siamo alla vigilia, appunto, come si diceva prima, di tre lunghi fine settimana nei quali rappresentano un po' l'avvio della stagione turistica per molti operatori. Sono zone, quelle dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo, che hanno una forte vocazione turistica e ovviamente hanno risentito molto della paura dei turisti ad andare in zone che sono state colpite dal terremoto e evidentemente c'è un certo timore. Dunque vogliamo sentire come stanno andando le cose. Iniziamo da Emiliano Pigliapoco, che è presidente di Federalberghi Marche. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro, tanto le Marche quanto l'Umbria hanno lanciato delle campagne per far tornare i turisti, appunto, nelle zone colpite. Voi, tra l'altro, avete, per così dire, piglia poco, un doppio problema, perché da una parte ci sono gli alberghi della costa nei quali sono ospitate molti degli sfollati, alberghi della costa che, voglio dire, con tutto l'amore, la passione umana per queste persone, dall'altra parte hanno dei clienti fissi che tornano ogni anno e ai quali in qualche caso devono dire necessariamente di no. E dall'altra parte le zone più strettamente colpite dal sisma. Come vanno le cose? Che segnali avete ricevuto dalle prenotazioni di questi prossimi tre fine settimana a partire da quello che sta iniziando? Allora, per quello che riguarda il fine settimana adesso pasquale, purtroppo le prenotazioni non sono moltissime, le prenotazioni stanno andando molto ma molto a rilento e sono sicuramente in ribasso rispetto agli altri anni. Invece abbiamo verificato che per il weekend successivo, 25 aprile, 1 maggio, c'è un ottimo movimento e questo ci fa ben sperare anche per la stagione estiva, con la speranza, ecco, che non avvengano più alcun tipo di evento e con delle belle giornate come queste io sono molto ottimista, insomma penso che quest'estate sarà una buona estate. Provenienze delle prenotazioni, le in solite? In questo momento abbiamo il 90% quasi di clienti italiani. 90% stiamo di clienti seguendo italiani. Il trend che c'è proprio a livello nazionale, dove sembra che gli italiani vogliano fare le loro vacanze in Italia, e questo è un aspetto da non sottovalutare, importante. Per gli albergatori della costa come vanno le cose? Allora, le prenotazioni diciamo che si stanno iniziando a muovere, sì. Siamo ancora un pochettino al di sotto rispetto agli altri anni, ma ripeto, io sono molto ottimista perché quest'anno sarà un'estate, da quello che si capisce, abbastanza calda, quindi sono sicuro che quando alla fine mi riferivo nella fattispecie a quel che si diceva prima, no? Il fatto che comunque sì, molti alberghi stanno ancora ospitando gli sfollati, da quel esatto. lato... Da quel lato lì, allora, tenga presente che noi Federalberghi Marche, in collaborazione con Confcommercio, abbiamo trovato disponibilità di alloggi alla Regione Marche per 5.200 posti letto sino al 31 dicembre di quest'anno. Tenendo presente che purtroppo un migliaio di persone che sono a questo momento alloggiati negli hotel della costa si dovranno spostare, ma anche per questi comunque siamo riusciti a trovare dei posti sia sì, lungo la costa che all'entroterra, più vicino alle loro zone di origine, per cercare di far ripartire un pochettino questa economia all'interno che purtroppo sta veramente andando molto male. Soffrendo molto. Grazie Emiliano Pigliapoco, presidente di Federalberghi Marche. Gianmarco Giovannelli, presidente di Federalberghi Abruzzo, buongiorno. Da voi come vanno le cose sul fronte delle prenotazioni? Buongiorno. Ma in realtà devo dire che la mia analisi è abbastanza coincidente con quella del collega Pigliapoco. Bisogna dire che l'Abruzzo viene anche da un'esperienza sociale ed umana legata al 2009, quindi certo, abbiamo assolutamente la consapevolezza di quelle che sono le necessità e soprattutto le necessità di accoglienza, ma anche le necessità preventive di organizzare gli alloggi necessari anche in virtù dell'inizio della stagione. Sì. Ma dal punto di vista strettamente delle prenotazioni, come sono andate le cose? Ah, guarda, abbastanza. Prima di tutto voglio ribadire che la costa abruzzese, come sempre è stata anche dal 2009 agli eventi ultimi, è una costa pulsante che ha saputo ben accogliere e accogliere, tutelare e far stare sereni e sicuri. Mi scusi Giovanelli, dato che abbiamo un altro ospite in attesa, le vorrei chiedere proprio su come stanno andando le prenotazioni. Proprio. Le prenotazioni sono a rilento, speriamo nel bel tempo e nel last minute, ma ribadisco che la costa è sicura e pulsante. Abbiamo tanti eventi, abbiamo iniziato a fare cose interessanti anche per comunicare in positivo questo stato di fatto, e sono certo che dal 25 aprile in poi ci sarà una maggiore vitalità di richieste che in una consuetudine ultime degli ultimi anni della famiglia italiana vengono poi decise le vacanze all'ultimo minuto, e siamo pronti ad accoglierli come sempre con una grande vitalità, ma soprattutto in estrema serenità e sicurezza. Speriamo che sia davvero così, che arrivino molti last minute. Grazie a Gianmarco Giovannelli, presidente di Federalberghi Abruzzo, e torna a noi anche Vincenzo Bianconi, che è presidente di Federalberghi Perugia ed è, lo ricordiamo sempre, anche Nursino, e ha subito lui in prima persona i danni del terremoto di Norcia. Bianconi, bentornato, e che segnali riceve dai suoi soci, dai suoi associati? Dobbiamo dire che siamo contenti di quello che sta avvenendo. Sono in arrivo un bel po' di prenotazioni. Il mercato più dinamico è sicuramente quello straniero, che pesa il 50% un po' della nostra economia turistica. I grandi eventi, l'ultimo di poco tempo fa, il Festival del Giornalismo, hanno avuto un grandissimo successo. I prossimi, il Festival dei Due Mondi, Umbria Jazz, stanno segnando un gran nuvolo di prenotazioni. Le dico anche che a Norcia qualche attività anche ricettiva ha riaperto e stiamo registrando prenotazioni a Norcia in centro storico di stranieri, e quindi le dico che siamo veramente carichi. Le difficoltà sono molte, ma siamo primavera. Bianconi, ma è una bellissima notizia questa, e anche inaspettata, direi, no? Assolutamente sì, era un test, non sapevamo quello che sarebbe potuto accadere, e senza fare un battage di pubblicitario importante, soltanto aprendo alcuni canali, sono arrivati anche persone dall'Inghilterra, dal Belgio, dalla Spagna con bambini, a testimonianza che la ripartenza è reale. Benissimo, ottime notizie, almeno queste. Speriamo che prosegua così, e speriamo che anche i fine settimana lunghi del 25 aprile e del 1 maggio portino soldi, economia e turismo a queste zone colpite dal sisma. Grazie anche a Vincenzo Bianconi, e in bocca al lupo. Noi chiudiamo qui per adesso, naturalmente poi ci risentiamo come sempre per i saluti, il traffico e Platero.